Benvenuti al nostro appuntamento giornaliero con la magia. Carissimi, e siete sempre in mia compagnia, un saluto dalla maga Grimilde che te predice passato, presente e futuro, sempre se c'è. La verità è il mio credo, credece. Sentiamo oggi la sfiga... Quale cara amica ci ha chiamato per sapere che morte deve morire? Allora, telefonata? Pronto? Sì? Come ti chiami, tesoro? Addolorata. Ah, che te fa male, tesoro? No, no, il nome. Ah, andiamo bene. Dando chiami? Carrupipi, in provincia di Palermo. Allora, che devi da chiedere ai tarocchi de maga Grimilde? L'amore. Che c'è, il pischello? Sì, no, insomma, ci siamo dati una pausa di riflessione, così si dice, no? Ah, e perché? Speravo me lo dicesse lei. Giusto. Tesoro, che so sti convenevoli, dammose pure der tu. Va bene. Aspetta che mischio le carte. 1, 2, 3, a fortuna via da te e alla sfiga di mo, tiè. Ok, dimmi il numero. 3. So, è uscito il mago. Per caso, nell'ultimo periodo, sto piscello tuo, che è sparito? Sì, ti ho detto che abbiamo preso una pausa di riflessione. Infatti vorrei sapere proprio perché se n'è andato. Dunque, aspetta un attimo. Qua c'ho a regina de coppe. Aia, te devo dare una brutta notizia, figlia mia. Che stai, seduta? Ora sì. Ecco, se n'è andata con una che beve birra, credo. Oddio! Ma per caso è mora? Può essere. Ma è alta 1,80? Mi pare, aspetta. Sì, tesoro, alta, mora, figa, insomma. Oddio, ma allora è la mia migliore amica! Esatto, cocca. Ma almeno dimmi che speranze ho, tornerà da me? Aspetta, altro giro di carte. 1, 2, 3, carta vince, carta perde. Aspetta un attimo, oddio tesoro, una tragedia. Vediamo se te puoi consolare col lavoro o mi vuoi chiedere qualcosa? A questo punto se riavrò il mio lavoro. Perché, t'hanno pure licenziata? No, è che il negozio dove lavoro è del mio fidanzato, cioè, spero che lo farà. Ah, aspetta, rimischio. Vabbè, bella mia, pensala così, quando c'è la salute c'è tutto. Allora, ultimamente mi fa male pure la sciatica. Una puntatina all'urdese? Che ultimamente va tutto male, anche sì. Con gli amici non va bene. E poi speravo di sposarmi presto e avere tanti bambini. Tesoro, ci stai? Ando, sei finita? Tesoro? Vabbè, salutiamo Addolorata, gli do un bacio importante, per oggi avevamo finito. Io vi saluto e vi ricordo che per avere in esclusiva al magico prezzo di 177 euro il talismano del mago Rinascimento che io stessa ho fatto importare dalla Papuasia, dovete chiamare al numero che c'è sta sullo schermo. Un bacio e un abbraccio dalla vostra maga Grimilde.